Francia e Germania. È lungo il solito consolidato asse che si riapre la discussione sugli aiuti in Europa, con un'inaspettata ma non priva di incertezze apertura su un debito comune per fronteggiare la crisi da Covid. L'Italia per il momento sta a guardare, presa dall'avvio di questa fase 2 che parte nel giorno nel quale si registra un numero di morti inferiore a 100. Un segnale di speranza, colto solo in parte da tutto quel mondo che sta dietro le vetrine, bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, estetisti, e che solo in parte ha riaperto. L'Italia sta a guardare e dibatte dei suoi provvedimenti economici, a partire da quel decreto rilancio il cui testo definitivo non c'è. E passando per quel decreto liquidità al quale si vuole appoggiare Fiat Chrysler per ottenere un prestito da oltre 6 miliardi da Intesa San Paolo, FCA, la quale si chiedono maggiori garanzie in termini di investimenti e mantenimento dell'occupazione in Italia. La politica si concentra sulla mozione di sfiducia al ministro Bonafede, mentre il mondo guarda le speranze dal vaccino americano e al nuovo scontro tra Trump e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. È martedì 19 maggio, sono le 6:31 minuti e 30 secondi. Questo è 24 Mattino. E per chi non ci avesse sentito ieri, abbiamo un po' cambiato musica, Sempre mantenendoci su Rolling Stones, Però con questo I'm Free a segnalare questa fase 2. Non siamo proprio liberi di far tutto, Però. La task force di questa mattina: Peter Bescapè in regia, Miriam Lucchetti e Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E voi, vi aspetto 349-238-6666 per le vostre voci, i vostri WhatsApp audio. Allora, da cosa iniziamo oggi? Ci arriveremo tra un attimo, sicuramente questo accordo tra Francia e Germania, questa telefonata tra Merkel e Macron che trovano un accordo per incrementare il budget europeo, per soprattutto dare il via libera per la prima volta a una sorta di debito europeo, che è quello che chiedeva l'Italia. Il tutto non sarebbe, secondo queste prime bozze di accordo, idea di accordo, il tutto non sarebbe senza condizioni. E però, un qualche segnale lo dà. Però ci arriviamo. Prima questa fase 2. Innanzitutto, perché non mi dite un po' come l'avete vissuta ieri? Siete andati a tagliarvi i capelli oppure no alla fine? Cioè, ci siete riusciti? Perché qua era il grande tema. O a fare una ceretta, o insomma, quel che è, ci siete riusciti. Il ministro Boccia si dice preoccupato. Io sono molto preoccupato, no, dobbiamo essere tutti molto preoccupati, perché questa settimana che inizia sarà la settimana più difficile. Io sono contento perché vengo, come lei, come tutti i telespettatori, da 2 mesi e mezzo terribili, difficili. Carta bellotta della Fondazione Gimbe, già in passato, come sapete, è stato nostro ospite, avverte: occhio. Significa che noi soltanto da oggi, giorno 18 maggio, cominciamo a contare gli effetti dell'allentamento del 4, e quelli del 18 li cominceremo a vedere a partire dal 3 giugno, quando praticamente riapriranno i confini interregionali e addirittura anche quelli internazionali. Cioè non avremo più nessuna possibilità di andare a vedere da dove vengono i contagi e con quali modalità si sono praticamente diffusi. Questo è il motivo per cui noi riteniamo come ente indipendente che il rischio non è affatto calcolato, perché di fatto per calcolare il rischio ci vogliono gli strumenti trasparenti, condivisi con le regioni e messi a disposizione della comunità scientifica. Di fatto quello che ci sta dicendo Cartabellotta è: dal 3 giugno non saremo più in grado di capire se queste misure hanno avuto effetto oppure no. Il virologo Pregliasco. Si tratta di un compromesso, a mio avviso, ragionevole. Vediamo se riusciamo a mantenerlo. Ecco, questo è il mio dubbio, è appunto quello di individuare una fattibilità, una ragionevolezza e non abbassare la guardia. Già si vedono episodi appunto di rilassatezza che invece non devono farci abbassare la guardia. Gli episodi di rilassatezza, dove li abbiamo visti? Ieri alla Vucciria a Palermo sono state anche pubblicate le foto, probabilmente le avrete viste in giro, un sacco di gente a passeggiare, molti senza mascherina. E poi Bergamo, sia in città alta che in città bassa. Troppa gente in giro, troppa gente senza mascherina in quello che è stato di fatto l'epicentro di questa crisi. Il sindaco Gori, andiamo a pescarlo, Peter Bescapè, vai vai. Ho visto però poi, più tardi, delle fotografie del pomeriggio che ritraggono le persone a passeggio in città alta, sulla Corsa Rola o in città bassa, in piazza Pontida, e ho visto tante persone senza mascherina o con la mascherina abbassata o troppo vicine. Io capisco che quando uno fa l'aperitivo, poi insomma prende l'aperitivo, non può bere, mangiare e tenere sulla mascherina, ma si capisce quando le persone sono prudenti e quando non lo sono, e l'immagine che ho visto oggi pomeriggio mi sembra che documentassero il fatto che ci sono tante persone che non hanno usato la giusta prudenza. Caro Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage, come stai Francesco? Sei andato a tagliarti i capelli o no? Buongiorno. No, niente capelli, buongiorno a tutti. Diciamo che io sono uno di quelli che ha optato per il drastico cambiamento di look durante questa quarantena, quindi col taglio a zero e via, rasato completamente. Allora, Francesco, insomma, adesso arriveremo anche a qualche tema economico, la vicenda di Fiat Chrysler, la vicenda del decreto rilancio, ci arriviamo, però, insomma, questo avvio di fase 2, come ti è parso? Mi è parso ancora con un discreto grado di incertezza, le immagini che abbiamo visto dalle città, eccetto appunto questo po' di persone in giro per Bergamo, persone in giro per Palermo, insomma, è stato lento tutto sommato, no? Sì, diciamo, allora, partiamo da un presupposto. I dati di oggi, i dati di ieri, anzi, del 18 di maggio, assicurano, o ci danno di ottimismo, nel senso che noi entriamo nel conteggio, diciamo, dei contagi di questa fase 2 con i numeri migliori che abbiamo mai visto dal 29 febbraio a oggi, quindi con meno di 100 morti e pochissimi contagi. La questione semmai è che quei dati ovviamente sono ancora figli, almeno tutto in parte, della fase 1. La paura che vedo, come dice giustamente Cartabellotta, è che si passi da tutto al niente, cioè che tutto avvenga in modo incontrollato e non ci sia di fatto non ci sia un rischio calcolato dietro a questa riapertura. Dico rischio calcolato perché sappiamo bene che una certa dose di rischio comunque ce la dobbiamo mettere per salvare un'economia. Inevitabile, sì, se no precipita tutto, insomma, esatto. Chiaro. Il tema però, sì. Fammi finire questo che sono importante. Certo, figurati. È che non mi pare ci siano adeguati, hai ragione in questo Cartabellotta, adeguati strumenti di monitoraggio per capire come le cose stiano andando. Banalmente, settimana scorsa non sono arrivati i famosi 21 indicatori promessi, dati arrivati dalle regioni al governo, non sono arrivati. Noi di fatto abbiamo assistito alla conferenza di Conte che diceva apriremo tutto, quindi che dava la scadenza delle prossime aperture, e in quello stesso giorno non erano arrivati i dati promessi sul monitoraggio dell'R0, ad esempio, da tutte le regioni. La sensazione è che siamo un po' come nella fase appena successiva al governo Monti, cioè che alla troppa austerità si risponda con zero austerità o con un rifiuto secco il famoso rischio di svaccare. E voglio precisare con gli ascoltatori che dicono insomma, che senso ha, dopo che abbiamo riaperto, parlare di troppa gente in giro. Mi sono espresso male, ovviamente, intendevo insomma alcuni luoghi nei quali c'è stato un po' troppo affollamento, e un po' troppo affollamento senza dispositivi di protezione, perché il tema è quello fondamentalmente, no? I luoghi nei quali ci si affolla e i dispositivi di protezione, che poi è la grande questione che sta attraversando, no, tutti gli interrogativi che si sta ponendo chi deve riaprire un'attività, chi l'ha già riaperta e non sa esattamente come muoversi. Le questioni economiche sono tante in questi giorni, e poi si intrecciano naturalmente anche con le questioni politiche. C'è la vicenda di Fiat Chrysler e questa richiesta di prestito a Intesa San Paolo con garanzia della SACE, quindi con garanzia statale, come da decreto liquidità, e si approssima, ma a mio personalissimo giudizio, un altro caso politico, perché a quanto pare, quanto scrive il Sole 24 Ore di oggi, anche i Benetton anche si preparerebbero a chiedere un prestito con garanzia dello Stato, e visti i trascorsi tra questo governo e i Benetton e la vicenda di Ponte Morandi, sappiamo come può andare a finire politicamente. Vedremo che cosa succederà, ma adesso, magari adesso sentiamo qualche voce. Però io prima, dato che c'è un ascoltatore che giustamente chiede, ma insomma questo decreto rilancio è stato pubblicato, vi voglio far sentire il ministro Patuanelli, ospite nostro, giusto venerdì scorso. Stiamo per pubblicare in Gazzetta tra oggi e domani il decreto da 55 miliardi. Credo che sia la manovra finanziaria più ampia fatta nella storia del nostro paese. Parlare di lentezza dell'azione di governo non sia esattamente corrispondente alla realtà dei fatti. Tra oggi e domani voleva dire tra sabato e domenica. A oggi, caro Francesco Cancellato, quindi il testo di questo decreto rilancio ancora non ce lo abbiamo. Io ho ricevuto ieri una bozza che aveva come titolo del documento, tra le semitiche bozze di questa fase, con scritto decreto rilancio tre quarti completo. Stiamo a posto allora, tutto a posto. Quindi sono venuti a presentare una manovra, un decreto rilancio che insomma è chiaro che nelle sue linee nelle sue linee essenziali c'è, però ci sono tutta una serie di dettagli che non sono irrilevanti. Per esempio il famoso bonus del 110% sui lavori di adeguamento sismico e il cappotto e il cambio della caldaia pare che adesso possano valere anche per le seconde case, però anche su questo per esempio non c'è chiarezza, no? C'è tutta una serie di elementi che van chiariti bene. Noi abbiamo avuto lo stesso giorno il ministro Fraccaro e il responsabile, diciamo, di ANCE, che aveva seguito questa legge, che ci ha detto qualcosa di diverso sul bonus del 110%. C'è chi dice che vale per tutto lo stabile, c'è chi dice che vale anche per le singole unità abitative, c'è chi dice che vale per le seconde case, c'è chi dice che non vale per le seconde case. Il problema vero è che il testo è molto oscuro e che ovviamente serve un'interpretazione, ma il testo non è ancora definitivo. Questo è il tema vero. Quindi non è definitivo e in più è oscuro come tutti i testi di legge italiani sostanzialmente. Parliamo anche di questo poi, tra l'altro, Simone. Parliamo di 55 miliardi, adesso a noi sembra le cifre hanno tutto un peso relativo, ma di solito sono cifre queste che noi vediamo in manovra finanziaria. Diciamolo, questa non è una legge di bilancio, non è una manovra finanziaria, ma uno stanziamento straordinario che vale due volte la famosa finanziaria, quasi tre, giallo-verde, che sembrava dovesse mandarci in default. Cioè anche il processo di costruzione di questo DL rilancio fatto in fretta e furia, cioè ricordiamoci di che cifre stiamo parlando e ricordiamoci che cosa mette in moto. Cioè è anche un po' fisiologico che non sia una cosa, diciamo, facile, istantanea. Sì. Un tema vero è che il Parlamento, diciamo, è stato messo neanche all'angolo sul decreto rilancio, è stato messo proprio in tribuna. Anche di questi meccanismi, diciamo, di costruzione delle politiche economiche dovremmo occuparci in una fase 2, una fase post-emergenza, perché fino a questo momento, diciamo, abbiamo governato, l'Italia è stata governata a colpi di DPCM, di decreti del governo, quando volevamo essere ecumenici e democratici. Non può andare andare avanti così per sempre. Sì, non solo, aggiungo questo, abbiamo creato, e oggi tra l'altro alle 8.20 avremo ospite la Ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, e anche di questo parleremo, abbiamo creato un corpus normativo sterminato in questi due mesi, e con degli aspetti assolutamente incomprensibili, dove si intrecciano ordinanze del Ministero della Salute, decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreti legge, leggi poi approvate in maniera diversa dal Parlamento, ordinanze dei Presidenti delle Regioni, ordinanze dei Comuni, insomma nelle quali in tutto questo è difficilissimo, no? Districarsi, comprendere esattamente, e rischia ulteriormente di bloccarsi una macchina amministrativa che è già il grande problema di questo paese, traffico. Poi c'è tutta la questione aperta del prestito richiesto da Fiat Chrysler. Naturalmente a chiederlo è la sussidiaria italiana di Fiat Chrysler. L'obiettivo, dicono, è quello di appunto aiutare gli stabilimenti italiani e quindi poi pagare anche i fornitori in una fase molto delicata. Il ministro Gualtieri, ospite ieri di Nicola Porro. Noi abbiamo detto che occorrevano degli impegni aggiuntivi a quelli già piuttosto stringenti che abbiamo introdotto nel decreto. Nel decreto si dice che non bisogna pagare dividendi, che bisogna utilizzare tutti i soldi in Italia, che bisogna gestire l'occupazione con accordi sindacali. Quindi abbiamo già messo, tra virgolette, dei paletti, sì, tra i più stringenti in Europa. E abbiamo detto: voi dovete confermare e rafforzare tutti gli investimenti che avevate in programma in Italia, nonostante il fatto sulle che fabbriche, adesso sulle fabbriche sta quindi dicendo. Occupazione, investimenti, abbiamo detto no a delocalizzazioni, non potrete delocalizzare nessuna produzione dall'Italia. Insomma, ragazzi, è quello che c'è già scritto nel decreto, quindi insomma poco da dire su questo fronte, forse una polemica un po' montata. L'impressione su Fiat Chrysler scatti sempre una sorta di riflesso condizionato del paese. Vedremo cosa succederà sui Benetton. E poi l'altro fronte economico è sicuramente questo ritrovato asse franco-tedesco, che leggiamo per esempio nelle parole di ieri di Emmanuel Macron in conferenza stampa con Angela Merkel, dopo questa telefonata, dopo questo incontro virtuale. Naturalmente c'è una proposta di 500 miliardi da mettere sul piatto del budget europeo tramite debito comune, in sostanza. Sur le plan budgétaire et des outils de solidarité. La chancelière vient de rappeler un instant l'importance de ce fonds de relance de 500 miliardi d'euro. Eccolo qua. E anche su questo possiamo sentire forse il ministro Gualtieri, perché insomma era in parte, almeno in parte, quello che diceva l'Italia, ossia facciamo del debito comune. L'Italia si è impegnata per prima a dire che occorreva realizzare un fondo per la ripresa che si finanziasse con Eurobond e che desse contributi a fondo perduto ai paesi. Oggi che i due leader di Francia e Germania, come loro posizionano, stanno decidendo, sarà la Commissione europea che farà la proposta, ma si posizionano, come si dice, sulla proposta che l'Italia ha lanciato e dicono, anche la Germania dice che bisogna raccogliere con titoli di Stato europei 500 miliardi e darli come contributo a fondo perduto ai paesi e ai settori economici più colpiti dal coronavirus, non credo che lo si possa definire una cosa negativa. E così dunque il ministro Gualtieri. Francesco, cancellato, mi pare tutto sommato un buon segnale questo franco-tedesco, che forse toglie anche qualche arma all'opposizione. Beh, alla faccia del buon segnale, nel senso che di fatto penso che sia la più grande fuga in avanti verso, dico una parolaccia, gli Stati Uniti d'Europa che abbiamo visto negli ultimi forse 20-30 anni, forse dall'avvento dell'euro. Cioè, la sensazione è che se questa proposta andasse in porto veramente si tratterebbe di una rivoluzione copernicana. In primo luogo perché si darebbe veramente un peso gigantesco al bilancio dell'Unione Europea, che diventerebbe veramente molto pesante. In secondo luogo perché questi contributi verrebbero raccolti attraverso titoli di debito comune. Noi ricordiamo che Angela Merkel fino al 2012 disse sulla mia tomba il debito comune europeo, e invece in qualche modo è lei stessa, insieme ad Emmanuel Macron, che lancia questa possibilità. Il fatto che non vi siano condizionalità o che vi siano condizionalità da questo punto di vista è quasi, come dire, un dettaglio, perché il punto centrale è che questa idea, se andasse in porto, poi necessiterebbe di un decisore politico che decida dove spendere quei soldi, quindi aprirebbe la strada al Ministro delle Finanze europeo. Nel momento in cui il Ministro delle Finanze europeo evidentemente devi dotare di una struttura, diciamo, governativa europea, che cambierebbe il volto alla Commissione. Io credo che questa mossa possa essere il vero preludio alla ridiscussione, alla ridefinizione dei trattati e alla nascita di una nuova Europa. Anneso tutte le parole di Christine Lagarde, la quale dice in queste ore il patto di stabilità, prima di farlo rientrare in vigore, va ridiscusso. Allora, Francesco Cancellato, io ti ringrazio intanto, vice direttore di Fanpage. Prima di passare al prossimo argomento, come sapete abbiamo iniziato un po' un giro all'estero per vedere come stanno andando le cose nei vari paesi, ma una voce, va, sentiamo una voce dall'Italia, un nostro ascoltatore, un barbiere, sentiamolo. Buongiorno, io ho prenotato il mio barbiere ieri, mi ha dato l'appuntamento il 27 di maggio. Il 27 di maggio, ragazzi, così siamo messi, così siamo messi alla disperazione. Francesco Costa, vice direttore del Post, autore di Questa è l'America, libro consigliatissimo, l'ho divorato. Francesco, ciao, eccoci. Buongiorno, grazie. Eccoci. Frutto dei tuoi innumerevoli viaggi negli Stati Uniti, del tuo racconto della politica americana. Allora, Stati Uniti che sono a 90.000 morti, è uno dei paesi più contagiati del mondo. Come la stanno vivendo questa fase? Come la sta vivendo questa fase l'America? Ma non benissimo, nel senso che l'America poi è un paese molto grande, questi numeri sono oggi in calo, la curva sembra essersi fermata, ma soprattutto perché si è fermata e ha rallentato l'epidemia nel posto più colpito dell'America, lo stato di New York. Altrove, nell'America rurale, i numeri sono ancora più piccoli, però stanno continuando a crescere in diversi stati, per cui l'epidemia sembra entrare in una fase diversa, ma che non è davvero una fase 2, quando invece le persone, le imprese, soprattutto su spinta poi del Presidente, i governatori sono stati molto più cauti in molti casi, hanno fretta di riaprire, di mettersi in moto. Dall'altra parte bisogna dire che in America la crisi economica fin qui è stata davvero un bagno di sangue, ci sono più di 30 milioni di disoccupati e un sistema di welfare che è molto meno capillare e presente del nostro, le assicurazioni legate al posto di lavoro, e quindi perdi anche la copertura sanitaria quando perdi il tuo impiego. Quindi l'idea è che stanno sperando bene, stanno sperando di poter ripartire, magari complice l'estate, stare di più all'aperto senza rischiare un forte aumento dei contagi, ma senza nemmeno prepararsi davvero a una eventuale seconda ondata del virus, magari in autunno. Sì, abbiamo un Trump di questa notte, sta facendo conferenze stampa quasi quotidiane, lo sentiamo, Peter Bescapè. It's been around for 40 years for malaria. For lupus, for other things. E qua è dove racconta che da alcuni giorni prende l'idrossiclorochina, quindi anche qua abbiamo un presidente che interviene e parla di questioni mediche o semimediche, dando suggerimenti strani. La settimana scorsa, due settimane fa, era la storia del disinfettante, no? L'idea di bere o iniettarsi del disinfettante. Francesco, adesso la storia dell'idrossiclorochina, anche qua è una gestione che ovviamente ha molto di mediano. Ha molto di mediatico, ma è anche molto pericolosa, perché se quando sentiamo della battuta sul disinfettante o sui raggi ultravioletti tutti sono in grado, diciamo, di capire, quasi tutti, che è una butad, questo è un farmaco antimalarico al centro di grandi discussioni e anche di qualche test di terapia negli ospedali americani, ma delle quali non c'è ancora nessuna efficacia, e anzi un test in Cina ha detto che può provocare dei problemi cardiaci ai pazienti. Insomma, è un farmaco sconsigliato, e il fatto che il Presidente degli Stati Uniti dica io lo sto assumendo fin qui va tutto bene, insomma le TV americane stanotte, dando questa notizia, hanno anche, insomma, insistito sul fatto di dire agli americani non prendetelo senza consultare il medico, ecco, perché non è un farmaco qualsiasi. Francesco, abbiamo un minuto. Questa pandemia naturalmente rivoluziona anche l'agenda di una campagna, della campagna elettorale, perché poi a novembre si vota negli Stati Uniti. E come? Rivoluziona tutto, rotola intanto il modo in cui si fa la campagna elettorale. C'è un presidente che parla, come dicevi, ogni giorno e dice delle cose importanti su una crisi così grande, il suo avversario che è chiuso in casa sua da 2 mesi e parla solo attraverso lo schermo. E poi rivoluziona le priorità. Trump pensava di giocarsi questa campagna elettorale tutta sul tema dell'economia galoppante, dell'immigrazione infine fermata. L'economia non galoppa più, bisognerà far immaginare, costruire una ripresa che però passa dalla gestione di una pandemia, una questione che è molto legata al buon governo, all'attenzione ai dettagli. Quando Trump invece oggi vorrebbe moltissimo rimuoverla, dice se ne andrà via come un miracolo, sparirà questo virus, e quindi cambiano anche i temi, le priorità e i desideri degli americani, che oggi vogliono essere rassicurati molto più che invece magari fomentati con le vittorie che ha promesso Trump nel corso di questi 3 anni. E abbiamo i Rolling Stones che ci portano via intanto, grazie a Francesco Costa, vice direttore del Post, autore di Questa è l'America. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.